24 mattino. L'Italia si desta. Buona giornata cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Simone Spezia, benvenuti a 24 mattino, anche oggi con voi, poi domani tornerà Alessandro Milan, non vi preoccupate. Insomma, sicuramente la notizia di giornata, anzi sono due le notizie di giornata, se vogliamo, quella forse più gravida di conseguenze per il pianeta e senza dubbio la vicenda della Crimea e ovviamente le sanzioni varate ieri dall'Unione Europea e però naturalmente lo sguardo è concentrato tra varie letture, varie interpretazioni, non tutte univoche naturalmente, sulla visita di ieri di Matteo Renzi e di una foltissima delegazione di governo, e non solo di governo, c'erano anche gli industriali, a Berlino nell'incontro con Angela Merkel. Pare che la Merkel, tutto sommato, Renzi sia piaciuto. Le parole, le vene, i piedi, le mani, tutti gli organi dovrebbero essere ingranditi. Esatto. Allora avrebbe un enorme Schwanzstück. Questo è evidente. Oh. Diventerà molto popolare. Aurora Lussana, direttrice della Padania, buongiorno, ciao. Buongiorno a te, un caro saluto ai tanti amici di Radio 24. Andrea Sarubbi, buongiorno, ciao. Buongiorno a voi. Ex parlamentare, ora cronista parlamentare per La Stampa, eccoci. Allora, voi titolate oggi, Aurora, in ginocchio da te, lo show di Renzi a Berlino non incanta la Merkel. Beh, insomma, in realtà ho visto letture diverse, no? C'è chi dice, in realtà è stato un buon incontro, certo che sul rigore sembra non aver mollato, c'è anche da capirla perché è il terzo presidente del Consiglio che le passa sotto nel giro di due anni, no? Ovviamente quando ti arriva uno come Renzi, ormai abbiamo imparato tutti a conoscerlo, la fenomenologia renziana insomma è stupefacente, quindi sicuramente la Merkel è rimasta secondo me anche incantata da questo straordinario fiorentino che ha citato, ovviamente la cosa più bella del mondo che hanno fatto i fiorentini, che rinascimento, va bene, però alla fine sul fiscal compact, che è la cosa che ci interessa a tutti, il fiscal pact, si è rimasti tutti fermi di tre giri, quindi al giro di Monti e al giro anche di Letta. I 50 miliardi all'anno per 20 anni li dobbiamo tirar fuori, mi sembra una roba insostenibile, e quindi ovvio che la Merkel, straordinaria padrona di casa, ieri insomma comanda lei, e quindi insomma l'ha accolto bene, ci mancherebbe, un bravo ragazzo, alla fine fa quello che vuole lei. Un bravo ragazzo, sì, poi vabbè, sui 50 miliardi appunto là si può discutere, sono comunque tanti, diciamo così, ecco, nel senso che poi quello che deve calare il rapporto tra debito e PIL, quindi se cresce il PIL insomma le cose vanno un po' meglio. Allora, parlavi del Rinascimento, eccolo Renzi sul Rinascimento, sentiamo. Trovo che sia molto bello, da ex sindaco di Firenze, che il percorso che la Germania e l'Italia come grandi economie manifatturiere europee hanno avviato verso un nuovo rinascimento industriale europeo. Il rinascimento industriale europeo significa che noi vogliamo costruire un'Europa competitiva a livello globale. Noi non vogliamo essere un continente che perde l'occasione dell'appuntamento con la storia. Allora, che cos'è la word cloud? È una nuvola di parole, no? Quando uno scrive qualcosa su internet, un lungo testo, c'è un modo per farlo apparire, per visualizzarlo con, si vedono più grosse le parole più utilizzate. Allora, Andrea Sarubbi, sindaco e Firenze, direi che se mettessimo insieme gli ultimi testi di Renzi, insomma, degli ultimi mesi, sarebbero ampiamente predominanti, no? Sì, probabilmente sì, insomma, lui sta puntando molto su questa sua caratteristica, doppia, no? La prima è quella della giovinezza, la seconda è quella della fiorentinità, e quindi su queste due cose ha impostato un po' tutto il suo canovaccio comunicativo. Quindi è chiaro che sta dando questa immagine, che so, Monti aveva puntato sulla serietà e sul rigore, Letta aveva puntato sul suo essere poliglotta e sul suo essere molto ben educato, cortese, eccetera eccetera, insomma, è anche contemporaneamente alla mano, no? Più alla mano di Monti, quindi ognuno ha dato la sua immagine comunicativa. Berlusconi, ci ricordiamo bene su che cosa aveva puntato, quindi sì, sul cucù, sulle battute, eccetera eccetera, e quindi è chiaro che insomma, ogni presidente del Consiglio si impone anche a livello internazionale per qualche cosa. A me quello che colpisce dimmi è che ho fatto un giro su i quotidiani tedeschi online e non ce n'è uno. Non ci fila nessuno in cui trovo la visita di Renzi. Mi pare che ce ne sia uno in cui ho trovato la visita di Renzi, ma soltanto nella parte sportiva, perché fa vedere la maglia per la maglia di Mario Gomez che ha regalato, che tristezza. Questo è per dire che è una visita che è molto più importante per l'Italia che non per la Germania. Sì, la Merkel vede Renzi come ne vede altri 6, 7, 8 ed è una cosa di routine, no? Scusate il paragone un po', come posso dire, quasi blasfemo, ma insomma lo faccio volutamente anche per ridere. È come quando uno si fa la foto dal Papa, è lui quello che pubblica la foto che ha fatto col Papa, non è il Papa che pubblica la foto col fedele che è andato lì in piazza, insomma, no, normalmente. Certo. Ecco, quindi, certo. Secondo me siamo un pochettino sbilanciati in questo momento, e capisco che Renzi abbia avuto bisogno di questo per costruire un'immagine internazionale che non ha. Io mi ricordo benissimo alle primarie del 2012, quelle in cui Renzi corse contro Bersani, uno degli argomenti che venivano utilizzati di più dai detrattori di Renzi, quindi dai votanti di Bersani, era: ma ce lo vedete questo andare a parlare con la Merkel? Ah sì, me la ricordo, e poi alla fine ci ha parlato normalmente, come è normale, ma perché alla fine ha parlato, no? Con la Merkel, come è normale. Lo disse Scalfari questa cosa, se non ricordo male. Aurora Lussara, tu te lo ricordi, la disse Scalfari questa cosa qua, e lui rispose vabbè, fa meglio non votare per me, non me ne frega niente, insomma. Ma no. E invece adesso siamo il governo selfie, e quindi Scalfari si deve rassegnare. Il governo selfie. Va bene, insomma, l'acrimonia dentro il PD, nel mondo della sinistra, è evidente a tutti, ovvio, ha un atteggiamento poco consono agli aristodem, e quindi posso immaginare che chi viene da quei percorsi lì, Renzi non lo può proprio soffrire, più ancora che una persona che magari ha votato per Berlusconi o per il centrodestra in generale. È proprio a livello antropologico, secondo me, intollerabile per una figura come povero Scalfari, che insomma arriva da un percorso umano, politico, culturale, che non c'ha niente a che vedere con questa cultura così contemporanea. Un po' la bimbo minchia, noi la chiamiamo, sulla Padania, internata dal nuovo corso del governo selfie. Sì, bimbo minchia. Tra l'altro ne avevamo parlato proprio la settimana scorsa, perché se non sbaglio Libero aveva titolato su questo, no? Quando c'era stata la vicenda della scuola, no? Andrea, che ha scritto i bimbi minchia di Renzi, un Libero e il Giornale, non mi ricordo, qualcosa di Padania. Voi eravate voi, eravate proprio voi, eravate proprio voi. No, perché quel giorno è stato un inferno, no? Sui titoli. C'eravate voi con i bimbi minchia di Renzi, gli altri con i Balilla e tutte le facce. No, guarda, io come la Padania mi sono rifiutata di utilizzare questo mito del ventennio, dei bambini, dei Balilla, perché ripeto, la figura di Renzi secondo me non è da associare alle grandi ideologie novecentesche, ma estremamente fluido, quindi è pensiero debole e fluido, e posso dirlo, è proprio comunque il frutto del pensiero debole contemporaneo, cioè non c'è ideologia dietro Renzi, c'è, ripeto, questa capacità di intercettare i bisogni della contemporaneità, la bimbo minchia, il linguaggio, l'atteggiamento, il multitasking, e quindi secondo me paragonarlo al ventennio, un'ideologia novecentesca, secondo me è scorretto. Devo dire, su questo sono d'accordo. Stavo pensando al titolo del giorno invece oggi, perché visto che stiamo tanto parlando di internet, abbiamo citato la word cloud, i bimbi minchia, che lo ricordiamo ancora per gli ascoltatori, i bimbi minchia sono quelli che su internet, l'avevo spiegato un'altra volta, però insomma casomai, sono quei ragazzini che su internet twittano e scrivono anche su Facebook solamente o quasi solo dei loro idoli, e bimbi minchia si scrive con la K perché non usano il CH quando scrivono, un po' come per gli SMS. Il giorno titola Merkel, due punti, mi piace Renzi, proprio come se fosse uno status su Facebook, tra le altre cose, insomma. Quindi vedo che evidentemente il paragone regge. Ha parlato Renzi anche di riforme, insomma, non per l'Europa, questa è una cosa che continua a ribadire, ma devo dire la verità, non è nemmeno il primo che la dice, ma insomma per i nostri figli, sentiamolo. Perché noi pensiamo che l'Italia debba fare le riforme perché lo chiedono i nostri figli, non perché lo chiedono i partner europei. Poi è bello fare le riforme insieme, poi è giusto fare le riforme insieme, poi tutti abbiamo da guadagnare dalle riforme, ma l'Italia deve smettere di pensare che si fanno le riforme perché ce lo chiede Bruxelles o Berlino o altre capitali. Facciamo le riforme perché è giusto per noi. Allora, diceva Aurora Lussana, no, non piace questo Renzi, non piace agli Aristodem, e piace però a qualcun altro. Ieri mattina noi abbiamo avuto, a 24 mattina, abbiamo avuto Giancarlo Galan, e che fatichiamo a questo punto ad inquadrarlo nell'opposizione, insomma, sentiamo che cosa ci ha detto, va. Prima all'inizio lei mi aveva preannunciato che avrebbe chiesto un giudizio sulla performance, io non ho timore, gli do 9. Ma sì, perché non si può chiedere di più. Intanto parlare alla gente invece che a parlare ai politici è già una cosa straordinaria. L'abbiamo già vista, ma è straordinario che venga ripetuto. Secondo, ha dato un po' di speranza agli italiani, e per carità, è a un terzo dell'opera, perché adesso ha detto che cosa farà, adesso lo deve fare, che è la parte più difficile e anche quella più pericolosa. Insomma, Andrea Sarubi, se un esponente di Forza Italia ed ex direttore centrale di Publitalia, quindi uno che, come dire, di marketing in genere se ne intende, gli dà un 9, evidentemente l'uomo funziona. Ma che sia Galan a dargli 9 non deve stupire, che sia ragioniere generale dello Stato sì. Nel senso che finché Renzi prende dei voti sulla comunicazione e sull'impostazione di queste sue prime settimane, dal punto di vista appunto della riuscita pubblica, è chiaro che è piuttosto facile, sono voti alti. Quello che ancora bisogna vedere, che secondo me costringe tutti a tenere il giudizio sospeso, ma lo dico proprio per obiettività giornalistica, insomma, è capire come verranno fatte queste misure, perché è evidente che io posso, cioè, ad agosto vincono tutto il campionato le squadre, no? Poi dopo bisogna vederle in campo e capire tutti questi grandi acquisti che posto troveranno nella squadra. La stessa cosa funziona con le promesse della politica e dei presidenti del Consiglio in particolare. È chiaro che gli obiettivi erano chiari a tutti, cioè non credo che Letta avesse obiettivi diversi rispetto a quelli di Renzi o che Monti avesse obiettivi diversi. Forse adesso è passato un po' di tempo in più, quindi si può trovare un fronte comune migliorato anche dalle elezioni in Francia, per esempio, che hanno fatto un po' cambiare la linea al governo francese su una flessibilità, anche qui parliamo di flessibilità limitate, perché dire che Renzi è tornato indietro con i cordoni della borsa più larghi perché lui ha voluto convincere Angela Merkel, insomma è una cosa che fa un po' ridere, che è una ricostruzione abbastanza caricaturale. Detto questo, però è chiaro che lui ha delle idee che sono idee buone, che aveva anche prima e che probabilmente avrà anche al prossimo giro nel caso non ci riuscisse ora. Il problema è capire dove trova i soldi. Io so di qualche viceministro che andava in giro a cercare miliardi in questi giorni e non credo che sia un'impresa abbastanza semplice. Cioè, viceministri che vanno a cercare miliardi, cioè, cosa fanno? Girano, girano per i corridoi del ministero, aprono i cassetti, controllano se dentro c'è qualcosa, insomma. Ci scrive un ascoltatore, 349-238-6666, che Galan una volta tanto ha perfettamente ragione. Da notare però una cosa su quello che dice Andrea Sarubi, che è vero che il clima è cambiato, no? Il rischio che ha paventato Renzi di fronte alla Merkel è l'ondata euroscettica. Il problema è che gli euroscettici di casa Merkel, che sono Alternative für Deutschland al 7,5%, sono in realtà dei rigoristi profondi, e quindi se vuole arginarli Angela Merkel non può concedere un millimetro, e anche questo è un problema. 24 mattino. Allora, i twitteri mattinieri, scrive il Jega, l'incontro di ieri di Renzi si può riassumere con l'hashtag della Merkel: Matteo stai serenen. Non è malaccio, Matteo stai serenen. Solidarietà, ringrazio Cristiano Bosco per la solidarietà, per aver tentato di spiegare la parola bimbi minchia, insomma, a quest'ora della mattina in radio non è effettivamente sempre facile. C'è un'altra questione che riguarda sempre Renzi, poi magari toccheremo anche il tema di Berlusconi, e che riguarda questa vicenda della casa di Renzi, un affitto pagato da un imprenditore molto vicino a Renzi, se ne è occupato Libero ampiamente, e adesso titola Grillo sta con Libero, Renzi spiega la casa. Ieri impazzava per modo di dire, poi alla fine Renzi, scritto Renzi e rispondi, l'hashtag su Twitter, proprio perché Grillo chiede al Presidente del Consiglio delle spiegazioni in merito a questa casa. Aurora Lussana, alla fine si finisce sempre là, comunque Scaiola poi è assolto, quindi insomma quindi magari insomma non è niente nemmeno questa storia, però sempre là, sempre la casa. Ma appunto, allora, se non è niente, il signor Carrai ha avuto tanti incarichi importanti, faccia due righe, faccia un tweet sulla sua casa Renzi, che così capiamo tutti come mai gli veniva pagato questo alloggio in città. Ha fatto della trasparenza, ha fatto della comunicazione un suo mantra, c'è un po' di ansia da prestazione su questa vicenda per non esprimersi, non lo so, lo vediamo un po' in affanno su questa cosa, così la come rimossa, quindi credo che questa iniziativa vada sostenuta. Ovviamente anche Grillo è arrivato subito ieri sulla vicenda, li ho visti anch'io i tweet ieri. Si chiede solo un po' di chiarezza, ci può stare che un amico ti paghi un'abitazione? A me non è mai capitato, io non ho il potere di dare incarichi a nessuno, evidentemente, a me non è mai capitata, beato lui, ce lo spieghi con un tweet. Senti una cosa, ma invece questo referendum per l'indipendenza del Veneto, tra l'altro se non sbaglio ne parla Oscar Giannino oggi, o insomma forse ne ha parlato ieri, adesso scusate, quando uno poi si sveglia alle 4 del mattino magari fa un po' confusione tra i giorni, però che mi dici su questo, Aurora? Ma allora, questa è l'iniziativa di plebiscito.eu, questo sito di venetisti, di indipendentisti, sta raccogliendo tantissimi voti, veramente un plebiscito. La Lega nelle scorse settimane ha organizzato gazebo, banchette, abbiamo raccolto in un solo fine settimana 100.000 firme a sostegno della risoluzione 44, che chiede di indire, così come vorrebbe il diritto internazionale, io credo nel diritto di secedere nell'autodeterminazione dei popoli, di tutte le patrie, di tutte quelle nazioni che non coincidono con lo Stato, perché le nazioni non sempre coincidono, e il Veneto, che sappiamo tutti essere una nazione e un popolo che ha una storia... Una nazione, Aurora, dai su. Io credo che ci siano delle nazioni non riconosciute, non, il popolo di Crimea ce l'ha dimostrato, nel senso, non è che perché fai parte di uno Stato non puoi avere la tua nazionalità e lottare per l'autodeterminazione. Lo stanno facendo i catalani, lo faranno a breve, lo stanno facendo gli scozzesi e lo fanno a breve, e sono tutti popoli chissà perché straordinari, che hanno un'economia che funziona, che hanno un senso di comunità forte, e non è che sono proprio i popoli sottosviluppati che chiedono la secessione, l'autodeterminazione. Ieri guardavo sulle 24 ore casualmente, non sulla Padania, che la scossa. No, non casualmente, non casualmente. Guardavi il Sole 24 Ore e lo leggevi attentamente come tutte le mattine, questa è la come frase. Tutte le mattine, dopo aver letto la Padania. Naturalmente, sì, certo, questo concetto. Scrivevano sul Sole 24 Ore che la Scozia, guarda caso, è uno dei paesi più attrattivi del mondo a livello di investimenti. Quindi se un popolo come la Scozia, la Catalogna, adesso il Veneto e per fortuna la Crimea si vuole autodeterminare, i nazionalismi devono capire. Io sono per un'Europa delle patrie, dei popoli, che nasce dal basso, non uno Stato sovranazionale europeo a modello imperiale, a barbarossa. Abbiamo, aspetta un attimo, abbiamo lo spot, mi dice Peter Bescapete, sentiamolo, va del... Solo l'indipendenza può far crescere la nostra regione. Se anche tu vuoi che il Veneto diventi una Repubblica federale indipendente e sovrana, dal 16 al 21 marzo vota online il referendum di indipendenza del Veneto. Collegati al sito www.plebiscito.eu oppure chiamalo 0423 40 22 22 per avere informazioni e per ricevere il tuo codice di voto. Clicca su www.plebiscito.eu. Andrea Sarubbi, che ti pare? Ma io mi viene in mente un referendum sbagliato anni fa, quello sull'indipendenza di Ostia da Roma, dal comune di Roma, che forse poteva essere sfruttato meglio, perché Ostia Comune forse avrebbe fatto qualcosa di meglio rispetto a quanto è stato fatto nel corso dei decenni, però poi questo è l'unico caso che mi ricordo di un referendum in cui forse ci avrei pensato sopra. A parte gli scherzi, no, niente, qui vabbè, loro fanno la loro battaglia politica e vabbè, l'hanno sempre fatta, eccetera. Se già il solo farsi un referendum sarebbe una grande vittoria della Lega, perché un partito con 4% si ritroverebbe poi che il sì al referendum invece del 4 lo votano il 18, e quindi improvvisamente hanno quadruplicato i loro consensi, tra virgolette. Quindi è chiaro che ci costruiscono una battaglia, una rendita di posizione. Per fortuna in Veneto si sentono italiani. Infatti ieri il 17 marzo, festa dell'unità nazionale, non si è ricordato manco nessuno. Doveva essere festa nazionale, ne siamo già tutti dimenticati. Se devo rispondere alla propaganda con la propaganda lo faccio, se dobbiamo parlare seriamente, insomma, per fortuna il Veneto è Italia. No, un vero democratico come Sarubbi credo che sia a favore dell'autodeterminazione. Meno male che il Veneto, no, ma non mi litigate a quest'ora. No, per carità. Tanto, vabbè, comunque Riccardo Foglia. Ma una persona come Sarubbi che voleva dare il diritto di voto a tutti gli stranieri, battaglie per la cittadinanza, vuole fare il referendum. Aurora, però aspetta, che mi sta arrivando un punto importante, Sarubbi, mi sta citando Riccardo Fogli, non so in che ambito. Riccardo Fogli credo abbia dato già la disponibilità per cantare, ecco, come ha fatto in Crimea. Detto questo, però no, c'era il punto della casa su cui la casa di Renzi, dai, sì. Scusa, ma sono davvero curiosa. Sarubbi che lottava per dare la cittadinanza. Aspetta. Vuole o no il referendum? Sarebbe favorevole o no? Sarubbi, nel mio immaginario, uno che lotta per i diritti, no? E quindi dice. Voleva mica dare il voto agli stranieri, agli ussoli. Proprio veramente ridicola. Quando anche si decidesse di farlo, io starei a guardare, ma insomma poi contiamo le schede e ci divertiamo, ecco, questo è sicuro. Ma quindi questo, sei convinto che comunque, insomma, cioè, ma si vince tanto a poco, cioè non c'è neanche partita. Okay. Detto questo, no, volevo tornare un secondo sulla casa, perché è un argomento che mi interessava, e volevo chiedere se avete l'indirizzo di Carrai al quale scrivete, perché qua l'affitto mio è abbastanza caro ultimamente e volevo eventualmente avere una mano. Io capisco che ce l'ha con la nuova era di Renzi, perché vabbè, per lui no, insomma, Detto questo, però non mi risponde Sarubbi. Brevissimamente, Andrea, in 10 secondi rispondi ad Aurora Lussana. Dice: ma tu sei a favore dei diritti, non sei a favore del voto? Tu dici, mi sembra che tu abbia detto votassero pure, insomma, no? Sì, ma

buon senso. Storia nella storia, che sarà da valutare anche questa. Nel frattempo erano partiti due ricorsi di Venezia Terminal Passeggeri, il gestore della marittima e di una decina di imprese portuali del comitato Cruise Venice, uno dei quali vedeva la partecipazione tra gli altri dell'avvocato Francesco Curato, marito della soprintendente veneziana Renata Codello, da sempre silente sulle gigantesche imbarcazioni. 24 mattino. Buona giornata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia e bentornati a 24 mattino, ancora oggi con voi, poi domani mattina tornerà Alessandro Milan. Oggi abbiamo deciso di parlare della situazione in Ucraina, o meglio della situazione in Crimea e di tutto quello che è successo dopo la crisi ucraina, senza naturalmente nessuna pretesa di essere esaustivi, ma cercando di analizzare la situazione. A me interessano particolarmente due, tre, quattro punti. Il primo è quello più generale, se vogliamo, capire se siamo di fronte ad uno scenario che ci potrebbe portare ad una nuova guerra fredda o ad eventuali estensioni di un conflitto armato. E questi sono i primi due elementi. L'altro elemento è capire, dopo il varo delle sanzioni di ieri da parte dell'Unione Europea, insomma, se queste sanzioni sono valide oppure no. C'è già chi scrive, lo fa per esempio Vittorio Emanuele Parsi oggi sul Sole 24 Ore, che tra l'altro è in linea con noi, lo saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Che se queste sanzioni sono troppo deboli rispetto ad un paese, ad una vicenda che ha riguardato un paese, l'Ucraina, che aveva volontà di aderire ad un accordo di cooperazione quantomeno con l'Unione Europea e chissà magari una futura estensione, una futura adesione, forse i ministri dell'Unione Europea potevano essere un po' più duri da questo punto di vista, come del resto è stato il presidente americano Obama, come sono stati gli Stati Uniti. Certo, si dirà, loro sono dall'altra parte dell'oceano, in qualche misura è più facile. Saluto Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri, benvenuto. Buongiorno. Grazie dell'invito. Allora, le faccio prima muovere le critiche da Vittorio Emanuele Parsi, perché da quel che abbiamo letto sui quotidiani oggi c'è stato anche un ruolo dell'Italia nel tentare di annacquare le sanzioni europee o comunque di renderle un po' più morbide rispetto a quello che si attendeva, e poi la vorrei far rispondere su tutto questo e anche sulla situazione in generale. Parsi, le sembrano troppo deboli da quel che ho letto nel suo commento di oggi sul Sole? Direi che non si possono neanche definire sanzioni, onestamente. Ed è particolarmente grave, credo, perché questa sfida interpella direttamente l'Unione Europea e siamo di fronte a un atto estremo, cioè siamo di fronte a un atto di una gravità inusuale nelle pure ricorrenti crisi di politica internazionale, come l'invasione militare da parte di un paese terzo rispetto a un altro paese. E come diciamo prima, questo è particolarmente sfidante per noi, perché non va dimenticato che l'escalation di questa crisi è legata esattamente alla subitanea, diciamo così, decisione dell'ex presidente di non firmare più il trattato di associazione dell'Ucraina con l'Unione, e tutto lascia intendere che la questione crimeana sia semplicemente, diciamo così, un pretesto per poter avere una capacità di influenza molto forte sulle vicende complessive dell'Ucraina da parte della Russia, legate proprio a questa prospettiva di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione. Questo credo che per noi dovrebbe essere manifestato come fosse inaccettabile l'utilizzo della forza militare per dirottare le deliberazioni di un paese. E questo non è stato fatto. Allora, questa è la sua lettura. Io ricordo ancora per gli ascoltatori, naturalmente, che insomma, non avessero seguito per filo e per segno la vicenda, per quanto importante, per quanto dibattuta dai giornali, e che la vicenda riguarda una parte del territorio ucraino, che è la Crimea, che era già di su una regione ampiamente autonoma, addirittura andava sotto il nome di Repubblica, nella quale sono entrati sostanzialmente i militari russi, nella quale il Parlamento locale ha sancito l'annessione alla Russia. Il 30 marzo, considerate che ci saranno una serie di effetti pratici, le lancette andranno a 120 minuti avanti accordandosi con gli orologi russi, verranno cambiate addirittura le estensioni dei siti internet, si passerà al rublo, chissà se gli conviene davvero, viste le condizioni del rublo, però insomma, questo è tutto un altro discorso. Della Vedova, troppo deboli le sanzioni europee? Ma guardi, io sono altrettanto preoccupato come Parsi, e lo siamo tutti quanti noi, della vicenda, della piega che ha preso la vicenda Ucraina, Crimea, Russia, ruolo di Putin. Il punto di ieri sulle sanzioni, che sono evidentemente un primo passo simbolico, il punto sulle sanzioni che sono graduali. Quindi Della Vedova ci conferma che anche secondo la sua visione è un passo simbolico questo, cioè non è il vero atto di Bruxelles nei confronti della Russia. No, questo è chiaro, riguardano una ventina di persone, sono, ripeto, misure che hanno il carattere di una presa di posizione dell'accesso allo strumento delle sanzioni. Ovviamente siamo tutti consapevoli che non sono le misure prese ieri che possono in qualche modo modificare i comportamenti di per se stesse, ma è chiaro che lì c'è l'Europa che all'unanimità sceglie quella via. È altrettanto chiaro che l'auspicio non è quello di un ritorno alla guerra fredda, ma di provare fino all'ultimo a riaprire canali politico diplomatici, ma è altrettanto chiaro che questo è un primo passo. Già si tratterà di capire, credo che oggi pomeriggio Putin parli alla Duma, pomeriggio ora russa, quali saranno le valutazioni, se c'è un passo di riconoscimento formale. Allora guardi, no, se c'è un passo fermo verso l'annessione, ha capito? Sì. È quello che ci tengo a dire, che è evidente che questo, nessuno pensa, virgolette, di come dire, far cambiare idea a Putin con le misure di ieri. Ma Putin ha capito che l'Europa all'unisono, con l'accordo con gli Stati Uniti, è pronta a muoversi in modo risoluto su quella via. La stavo interrompendo perché in realtà ci sono delle notizie che arrivano da questa mattina. Putin ha informato ufficialmente il Parlamento e il governo russo della richiesta della Crimea di far parte della Russia, notizia di poco fa, è la prima tappa legislativa, questo è quello che ha reso noto il Cremlino. Putin pochi istanti fa ha dato disposizione di approvare la bozza di accordo tra la Russia e la Crimea per l'annessione di quest'ultima. Questa, anche questa è una notizia che è stata diffusa poco fa dal Cremlino. Parsi, a me interessa anche capire, secondo la sua valutazione, ricordo agli ascoltatori che se hanno domande il numero è l'800240024, come sempre c'è anche il 349-238-6666, al quale stanno già arrivando dei commenti, ascoltatori che dicono per esempio che la Crimea è veramente di etnia russa, ammesso che in questo caso si possa parlare di etnie, comunque insomma quantomeno diciamo così di lingua russa, russofona e di cultura russa. A me interessa però capire se da un lato questa debolezza delle sanzioni, che da quel che ci ha detto Della Vedova sono per il momento solo un avvertimento, e dall'altro la situazione generale possono condurre, secondo lei, ad un'estensione del conflitto, al fatto per esempio che la Russia decida di prendersi, aperte virgolette, in serenità tutte le zone come la Crimea, cioè russofone o, come scrive l'ascoltatore, di etnia russa? Ma intanto devo sempre ricordare che noi non stiamo contestando l'appartenenza della popolazione crimeana nella sua maggioranza a un gruppo linguistico o a un altro. Stiamo dicendo che non è possibile indire un referendum in un paese dopo che l'ha invaso militarmente e gliene è sottratto una regione. E questo è inaccettabile. Perché altrimenti si capisce che da chiunque dovrebbe fare la stessa cosa. Il rischio di un'estensione del conflitto in qualche misura, a mio avviso, c'è, perché gli scontri ci sono nella zona orientale dell'Ucraina. Potrebbero indurre la Russia a praticare la stessa prassi che hanno usato con la Crimea, sapendo che sarebbero accolti con lancio di sale e di fiori da parte delle popolazioni e sapendo che non avrebbero sostanzialmente una reazione dura da parte della comunità internazionale. Perché questo poi è il punto, dissuadere Putin da pensare di poter aumentare il suo leverage sull'Ucraina aumentando le zone ucraine occupate militarmente. E se il risultato dell'avvertimento è stato quello per cui Putin, in nottata ha firmato il decreto di riconoscimento dell'indipendenza e nelle prime ore della mattinata di oggi ha chiesto alla Duma di approntarsi a riconoscere l'annessione della Crimea, direi che, come quelli, che avvertimenti come questi evidentemente lasciano il tempo che trovano. Non c'è nessuna novità rispetto alle posizioni che l'Unione aveva già espresso di condanna, questo è il punto. Quindi a fronte di una Russia che va al top dell'escalation con un'invasione militare e con la minaccia di aumentare, di trasformare da un fatto in un dato giuridico seppure non riconosciuto dalla comunità internazionale, l'Europa balbetta cose che poco aggiungono a quella che era la posizione precedentemente espressa dai diversi leader europei. Allora, io so che Benedetto della Vedova ci deve lasciare tra poco perché ha una riunione e quindi chiudiamo questa parte con lui, poi proseguiremo dopo la discussione anche con i vostri interventi, le vostre telefonate, le vostre domande con Vittorio Emanuele Parzi, poi ci raggiungerà il deputato europeo Pino Arlacchi che è membro della Commissione Esteri e parleremo anche con lui. Le giro sostanzialmente la stessa domanda che ho fatto a Parzi, soprattutto sul rischio di un'estensione e di un allargamento del conflitto, perché lei ha detto nessuno di noi spera, è ovvio che nessuno lo spera, che ci sia una nuova guerra fredda, e però il rischio che si addensi qualche tensione in più, anche vista la condizione economica della Russia, perché come sappiamo la tensione sul rublo e la fuga di capitali che è avvenuta in questi ultimi anni non aiuta naturalmente, e quindi Putin si potrebbe sentire aperte virgolette accerchiato, insomma, che rischi intravede vede lei? Sì, situazione economica russa e anche situazione economica ucraina, peraltro, ma io credo che se, come sembra dalle anticipazioni di questa mattina, la Russia deciderà di muoversi verso l'annessione, quindi rifiutando anche quest'ultimo momento di possibile interlocuzione sul piano politico-diplomatico con l'Unione Europea, fare previsioni su quello che può succedere a questo punto non è semplice. È chiaro che, come dicevo innanzi, le misure di ieri erano un primo passo, volutamente fatto in modo tale che non fosse una chiusura definitiva, ma se gli accadimenti di oggi sono quelli che si preannunciano, è chiaro che da questo punto di vista per l'Europa diventa totalmente intollerabile, e a quel punto sarà necessario salire di scala anche con le sanzioni. Grazie Benedetto della Vedova, sottosegretario agli esteri. Vittorio Emanuele Parzi invece resta con noi, anche se non fino alla fine della trasmissione. Ho un po' di domande che ci arrivano dagli ascoltatori, via sms, su Twitter, e poi prenderemo anche le telefonate all'800240024. Pausa. 24 mattino. Ci scrive un ascoltatore via sms: piantiamola, la Crimea era russa, è russa e sarà russa, vogliamo lasciare che i suoi abitanti decidano da sé e per sé, a noi conviene pensare ai gas nostri, ai tedeschi pure. Sentiamo Bruno da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, prego. Io volevo sapere qual è, se me la spiegate, la differenza che c'è tra la Crimea oggi e il Kosovo 10 anni fa. Io mi ricordo che il signor Ludwig, quell'esperto americano, in televisione si sforzava di dire sono di più, hanno fatto più figli, è giusto che abbiano una cosa. Se me la spiegate mi fate un favore, perché io veramente non capisco. Grazie Bruno, e devo dire che questa domanda risponde, o meglio, è la stessa di molti sms che ci arrivano e anche di molti messaggi che mi stanno arrivando su Twitter. Parsi, una risposta. È la nostra memoria storica che purtroppo è labile, nel senso che non dobbiamo mai dimenticare che la ragione dell'intervento in Kosovo fu che in Kosovo era in corso una guerra civile con una repressione da parte delle forze di Milosevic nei confronti della popolazione di etnia albanese. Nel corso degli anni abbiamo avuto molte occasioni di discutere sull'entità dei massacri, se si trattasse di qualche migliaio o di qualche decina di migliaia di persone uccise, ma non c'è mai stato il dubbio che almeno alcune migliaia di persone kosovare siano state deliberatamente uccise dalle truppe serbe. la Russia è entrata, è uscita dalle sue caserme e ha invaso la Crimea, oltre ad essere arrivata da oltre confine, senza che nulla di questo si fosse mai avvenuto, senza che ci fosse neanche la voce, non dico di un'uccisione, ma di un ferimento, di un serio di seri disordini interni. Quindi capisce bene che è come se domani gli americani uscissero da Aviano e occupassero Venezia, ecco, questo è il punto. Paragono un po' forte. Allora, ma sentiamo anche Maurizio da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per l'ospitalità. Senta, la mia domanda, io non avrei mai pensato di scoprire il filo russo, però la mia domanda è un po' di cacca con quella dell'ascoltatore precedente, cioè io vorrei capire la differenza... Maurizio, facciamo una cosa, guardi, proviamo a recuperarla in qualche modo, perché l'audio mi sembra veramente pessimo. Intanto sentiamo Andrea dalla provincia di Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io sono uno studioso ricercatore di storia militare. Io ha ragione Parci quando dice che manca la memoria storica, però qua manca anche la memoria degli ultimi due mesi. Io credo che sia stato profondamente sbagliato da parte dell'Europa incoraggiare i movimenti di piazza che ci sono stati a Kiev, perché la verità è che abbiamo, come europei, fatto credere cose che poi invece non ci sono state. Gli abbiamo fatto credere che noi li avremmo appoggiati, gli abbiamo fatto credere che sarebbe stata una passeggiata, gli abbiamo fatto credere che una volta mandato via Yanukovych saremmo stati lì pronti a supportare l'indipendenza dell'Ucraina contro tutto e contro tutti, e non era così. Quindi quando si parla di memoria storica non è solamente di lungo periodo, è anche di breve periodo, e su queste cose qui, a me spiace dirlo, l'Europa è una catastrofica serie di errori di politica estera. Tutto qui. La ringrazio Andrea per la sua valutazione, poi adesso recupereremo anche altri ascoltatori, anche l'ascoltatore da Bari, però vedo che il tema sul quale mi stanno sollecitando in molti, poi Parsi la faccio rispondere anche ad Andrea, oltre che a tutti gli ascoltatori che mi stanno scrivendo, tanto su Twitter quanto via SMS, dicendo, insomma signori, questi hanno fatto un referendum, per... l'adesione, alcuni scrivono per l'autodeterminazione, in realtà di fatto per l'adesione alla Russia o comunque per l'autodeterminazione, per l'uscita dall'Ucraina, e a questo punto si rispetti la volontà popolare, punto e basta, insomma. Beh, ma allora io ricordo a tutti che se domani in Alto Adige venisse convocato un referendum sull'adesione sul Tirolo o Alto Adige all'Austria, probabilmente il voto popolare sancirebbe in maniera plebiscitaria questo passaggio. In tutti questi decenni questa ipotesi sarebbe stata realistica dal punto di vista dell'esito, ma irrealistica dal punto di vista del diritto internazionale. Che cosa si fece dopo la Seconda Guerra Mondiale per tenere in considerazione, diciamo così, le preoccupazioni della minoranza germanofona rispetto a permanere all'interno dello Stato italiano? Si arrivò a un trattato bilaterale tra Austria e l'Italia che legava in qualche modo lo status degli altoatesini o sudtirolesi appunto a questo trattato, ed era la soluzione che si poteva anche cercare per la minoranza, scusate, per la Crimea rispetto all'Ucraina. Questo sarebbe stato una strada legalmente e legittimamente perseguibile. Quello che non possiamo accettare è il plebiscito post factum, cioè lei invade un paese e poi facciamo un bel plebiscito e aderiamo al 95%. Su quello che diceva Andrea sono d'accordo con lui, infatti attenzione, io mi guardo bene a santificare l'azione politica dell'Unione Europea e sono d'accordo sul fatto che non abbiamo sbagliato nell'incoraggiare un vicino a fare un passo audace, facendogli credere che saremmo stati al suo fianco, sapendo che invece non avremmo potuto essere così solidali per le note questioni legate all'energia e soprattutto alla inesistenza di una politica estera comune europea. Ma ripeto, sono due errori che purtroppo abbiamo commesso. Abbiamo commesso un primo errore, ne stiamo commettendo un secondo. Questo punto di errore in errore, prima o poi, non saranno solo gli altri a pagare gli errori dell'Europa, ma rischiamo di essere noi. Sentiamo Rinaldo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno Spezia, buongiorno. Guardi, la spiegazione che io ho sentito poc'anzi al discorso differenza Kosovo-Crimea non mi soddisfa assolutamente. Cioè, a me appare qui a Como, nei circoli culturali, appare anche questa volta come è stato per la Libia, dove siamo stati il plotone di esecuzione della famiglia Gheddafi, salvo poi per la Siria fregarsene altamente, abbandonare la Libia nel più completo dissesto, a me sembra veramente che in questo caso soprattutto, ma molto più del Kosovo, la Crimea, che era territorio russo ed è stata regalata all'Ucraina negli anni 50, abbia tutto il diritto sacrosanto dell'autodeterminazione. Assolutamente, cioè nel modo più assoluto, perché non vedo la ragione di tutto questo scandalo, di queste sanzioni, di questo casino rivolto al signor Putin. Grazie e l'ascolto in radio, buongiorno. Grazie Rinaldo, non l'ho seguita bene sulla Libia, però insomma ho capito il concetto, voglio sentire anche Maurizio da Bari che abbiamo recuperato, eccolo, buongiorno. Sì, grazie ancora di avermi chiamato, spero mi sentete meglio. Sì, pare di sì, prego. Okay, grazie. Comunque vada, nell'incertezza vada rapido. Sì, il giornalista ha già risposto al mio dubbio sull'autodeterminazione, che poi in realtà rispecchia quello di molti ascoltatori, sto notando. Quindi mi sono inaspettatamente scoperto filo russo, come però pare molte persone. A questo punto mi preme fare due osservazioni. La prima, non capisco quale sia il potere contrattuale dell'Europa in merito alle sanzioni, visto che insomma sappiamo la Russia essere il nostro primo fornitore di gas, avrei voluto vedere l'Europa fare imporre queste sanzioni a novembre. Secondo, faccio purtroppo presente che a me va cercando di una nazione fa paura, si veda quello che sta succedendo in Sud America, dove isolando i paesi possiamo dire filo comunisti, in realtà questi estendano la loro influenza di potere e purtroppo insomma la cosa non favorisce, ecco, la pacificità dei rapporti internazionali. Grazie. La ringrazio Maurizio, anche se intanto una precisazione, poi ritorneremo da Parsi, che non è un giornalista, o meglio è anche un editorialista del Sole 24 Ore, ma in realtà è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Lo facciamo rispondere e poi sentiremo tra un attimo anche un parlamentare europeo, Pino Erlacchi, che avevamo già sentito in passato e che aveva espresso posizioni molto dure, perché arriva qualche sms anche da questo punto di vista sulla natura della rivolta ucraina, e però lo facciamo dopo la viabilità. 24 mattino. Allora, saluto Pino Erlacchi, parlamentare europeo, membro della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Buongiorno, bentornato ai microfoni di Radio 24. Poi la vorrei sollecitare ancora una volta su un tema che aveva già sottoposto tanto ad Effetto Giorno quanto a 24 Mattino, sulla natura della rivolta ucraina, anche se in questo momento mi sembra che passi un po' in secondo piano. Vi voglio leggere anche un altro sms che secondo me è interessante, ci arriva da un ascoltatore che si chiama Walter, a proposito di tutta la questione. Molti ascoltatori stanno dicendo, beh insomma, un referendum per l'autodeterminazione, la Crimea è russa e quindi sarà russa e deve essere russa, ci scrive Walter, molti non riescono a comprendere che non è una questione di merito ma di metodo, un metodo che se accettato potrebbe creare un precedente a livello globale, possibile preludio di un nuovo conflitto. E lo snodo Parsi, ha sentito tutte anche le critiche che le sono state mosse dagli ascoltatori, lo snodo mi sembra esattamente questo, cioè non è tanto il fatto che la Crimea decida di essere russa con un referendum, ma come tutto questo è avvenuto con l'arrivo delle truppe e via dicendo, no? Sono d'accordo, l'abbiamo detto in precedenza e devo anche dire che io mi sento responsabile di fornire informazioni e mettere in luce analogie e differenze, poi non posso essere responsabile della soddisfazione dei nostri ascoltatori, che evidentemente dipende da ben altre persone, cioè, la sagra battuta, ma la questione nei confronti della Russia e del tema dell'accerchiamento, però vorrei dire che il punto è che Vladimir Putin ha trasformato, diciamo, quella che era una possibile transizione russa verso una forma, diciamo così, esotica di democrazia, nel radicamento di un banale autoritarismo. E credo che questo sia il punto da cui noi dobbiamo partire, non per decretare chissà quale morta agora delle relazioni tra Russia e Europa, ma sapendo che l'Europa sta trattando con un paese che ha interessi incompatibili con i suoi rispetto alla sicurezza, che è pronto a usare la forza sui confini dell'Unione, quindi a usare un asset che l'Unione non ha per far valere la sua potenza, e dobbiamo prendere atto di questo, e quindi strategicamente dovremmo iniziare a cercare fonti alternative di energia, perché è completamente suicida pensare di dipendere per la propria sicurezza energetica da un paese che minaccia la propria sicurezza politica. Questo è il punto, tutto il resto poi verrà di conseguenza, è una cosa che richiederà tempi, ma che prima iniziamo a fare e prima iniziamo a concludere. Pino Arlacchi, allora, eccoci, io vorrei capire come, innanzitutto come legge questa situazione dal suo osservatorio, dall'osservatorio del Parlamento Europeo. Noi abbiamo aperto la trasmissione, tra l'altro, dicendo che forse Bruxelles, in particolare i ministri nella fattispecie, è stata un po' debole nell'imporre le sanzioni alla Russia. Lei come la vede? No, non la vedo come una debolezza, la vedo come una posizione di ragionevolezza suggerita da paesi come la Germania e l'Italia, che in questo caso si muovono abbastanza in sintonia nel non drammatizzare, esasperare questa crisi, nel capire anche le ragioni della Russia, che non è il nostro nemico. Non c'è nessuna incompatibilità di interessi strategici e di altra natura tra noi e la Russia dopo la caduta del comunismo, non è un nemico, e quindi crearci gratuitamente un nemico senza che ce ne siano ragioni fondamentali, ecco, non mi sembra una cosa molto sensata, e mi sembra che dentro l'Unione Europea questa posizione sta gradualmente prendendo corpo e spero che si rafforzi sempre di più. Senta, c'è un ascoltatore, lei su questo era intervenuto anche molto, molto duramente, ripeto, anche ai nostri microfoni. C'è un ascoltatore che ci scrive, insomma, mia moglie che è ucraina, poi naturalmente le esperienze personali, le valutazioni personali valgono per quello che valgono, dice che siamo passati dalla padella alla brace fascista. E torniamo un po' su quello che è stata questa rivolta di Kiev e che caratteristiche ha avuto. In realtà mi sembra che da questo punto di vista ci sia stato un assestamento o no, Arlacchi? L'assestamento c'è stato, ma in peggio. Quindi la moglie dell'ascoltatore non ha tutti i torti. Ci sono 5 ministri di ispirazione fascista, neonazista e antisemita. Siamo tutti in allarme per il passato di alcuni di questi ministri e per le dichiarazioni che stanno arrivando dall'estrema destra, che ha finito per egemonizzare la protesta e per darle il tono. La protesta è nata come una protesta spontanea e pacifica e non violenta e democratica contro la decisione del governo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, ed è rapidamente degenerata in una specie di golpe soft che ha comunque portato diversi morti da una parte e dall'altra. Questi manifestanti, in definitiva, alla fine alla piazza, ha costretto un Parlamento democraticamente eletto e un Presidente a dimettersi, ad andarsene e ad essere sostituiti da un governo che non, anche l'Europa non ci dà alcun affidamento. Non dà alcun affidamento, dice lei. Sentiamo Andrea dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno a voi e ai suoi ospiti. Io volevo soltanto far notare che probabilmente l'Europa ha provato a costringere la Russia a negoziare il transito del suo gas verso i suoi clienti attraverso un paese che gli fosse fatto diventare ostile. E questo per di più l'abbiamo fatto provando a cavalcare una protesta interna di cui conosciamo poco la natura e possiamo prevedere pochissimo gli sviluppi. Anche questo può essere un precedente molto pericoloso nel cuore dell'Europa. Grazie. Grazie Andrea, e trovo l'accoppiata e la lettura che ne dà Pino Arlacchi e che ne ha dato Andrea, che è in un certo senso un completamento di quello che ci diceva Arlacchi, una buona sollecitazione per Parsi. Parsi, prego. Beh sì, sono curiosamente colpito dal fatto che il Parlamento Europeo sia più preoccupato dei possibili passati fascisti da dimostrare di alcuni membri del governo provvisorio che meno dell'invasione fattuale da parte di una potenza straniera di un paese ai nostri confini. Ma per carità, so bene che il Parlamento ha cose più importanti di occuparsi che non la politica estera e di sicurezza europea. Dall'altra parte però, attenzione, ribadiamo il punto di partenza, cioè l'Unione Europea, l'ho scritto forse un anno fa la prima volta, ha senz'altro commesso un errore nel proporre un trattato di adesione, scusate, di associazione a un paese al cui interno la questione non era ancora stata risolta politicamente, non l'abbiamo mai fatto con nessuno. Tutti i paesi che abbiamo proposto associazione o adesione erano paesi che avevano risolto al loro interno la questione se passare con l'Europa, avvicinarsi all'Europa o meno. Nel caso dell'Ucraina questo non è stato fatto, credo che non sia stato fatto per gli stessi interessi che adesso ci spingono a far dire che tutto sommato la cosa non è così grave, sono interessi legati ai consistenti interessi economici legati alle forniture di gas. Quindi sì. non stiamo parlando di, come posso dire, di una questione accademica. Però Parsi mi scusi, questo stiamo parlando di un anno fa, però la sollecitazione che arrivava da Andrea mi sembrava molto interessante, cioè dice: ma non è un pericoloso precedente anche l'aver esplicitamente sostenuto e nitidamente sostenuto una rivolta all'interno di un paese sovrano? L'abbiamo fatto con la Tunisia, seppure in ritardo, no? Dopo aver valutato quanto potesse convenirci o meno, dopo essere stati prima spaventati e poi aver cavalcato le rivolte. Per cui non è che sia un precedente, anzi, questa purtroppo, per fortuna, è la prassi della politica estera. È la prassi della politica estera. Cioè, non possiamo fare Biancaneve allora, una volta. Allora, Parsi, dato che è stato abbastanza duro con Arlacchi, io ho 30 secondi prima di chiudere e vorrei farlo rispondere. Prego. Egitto e Tunisia erano governati da autocrati feroci. Il caso dell'Ucraina è totalmente diverso, c'era un governo democraticamente eletto, le elezioni tra l'altro le abbiamo osservate proprio noi dell'Unione Europea, e quindi non c'era ragione di ricorrere alla violenza di piazza così grande. Sono morte decine di poliziotti, il governo ha emanato, il Parlamento ha emanato delle leggi molto dure. Questo ha innestato una spirale. Allora, Arlacchi, mi tolgono la linea perché sennò diventa un inferno. Grazie Peter Bescapè, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, grazie a tutti voi per l'ascolto. Domani torna Alessandro Milan e io torno al consueto orario alle 13 con Effetto Giorno. Buona giornata.